America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24, da New York Mario Platero. Vorrei scegliere nel corso di questa settimana delle tematiche che ci consentano un po' di riflettere su come possiamo migliorarci, diciamo, un po' tutti e che tipo di linguaggio possiamo usare per comunicare, per evitare di arrivare al litigio che troppo spesso contraddistingue le nostre vite del giorno per giorno e la nostra vita, come la vediamo anche in televisione. In Italia. E dunque, parlando di linguaggio e di linguaggio universale, questa puntata di avvicinamento al Natale la dedico a Claudio Baglioni. Claudio Baglioni ha tenuto un concerto questo fine settimana a New York, un tour che ha toccato Cile, Brasile, Venezuela, Costa Rica, Colombia, Giappone, Cina, Australia, insomma dappertutto. Questa musica di Claudio Baglioni è un po' l'anello che unisce pubblici e culture diverse. Questo, vi dicevo, è l'ultimo concerto prima di quello finale previsto a Roma per Capodanno, dove, secondo quanto ci ha detto Baglioni in una intervista che vi farò ascoltare fra poco, secondo lui ci saranno 300-400.000 persone, sarà un concerto gratuito. Allora, io, avendo avuto tra l'altro una formazione piuttosto eterogenea, varia, variegata, chiaramente dentro c'entra molta musica americana, recepita così attraverso occasioni neanche cercate. Per esempio, la scoperta intorno ai miei 13-14 anni, insomma, quando cominciai ad avere un complessino nel gruppo in cui si suonava, suonava tutti male, però insomma era, la rivoluzione era quella di suonare insieme agli altri. Insomma, era difficile che ci fossero musicisti singoli, solisti, eccetera. E quindi alcuni gruppi americani, ma per esempio anche la musica, la black music, la musica nera, con tutta una serie di influenze che non arrivavano chiaramente invece dalla musica dei bianchi, è strano a dirsi, però poi io se le vado a cercare ci sono già queste impressioni, queste suggestioni anche nei primi dischi che ho fatto. Era difficile in quel momento sfuggire alla metà degli anni 60 fino alla fine degli anni 60 alla grande influenza Beatles, però per esempio qui c'è stato uno dei più grandi autori di canzoni dopo Bud Bacharach, dal punto di vista proprio di musica popolare anche molto raffinata, che è Paul Simon, che è stato un grandissimo, che è tuttora un grandissimo autore di canzoni. Quindi ci sono comunque tante influenze. Adesso insomma sarebbe come veramente come fare una litania di santi, doverli citare tutti, però le influenze moltissime. Qual è una canzone di Paul Simon, per esempio, che ti ha colpito in modo particolare? Secondo me c'è Sound of Silence, per esempio. Sì, Sound of Silence, o anche Bridge Over Troubled Water, che io ho avuto tra l'altro anche l'occasione di cantare in una trasmissione televisiva, facendo io anche Sound of Silence insieme a Garfunkel, che è venuto in Art Garfunkel, è venuto in Italia a fare alcune apparizioni televisive, e ci siamo ritrovati insomma ad arrangiare questi due brani memorabili e ad attuarli, a cantarli insieme. Still remains within the sound of silence. E da quando ho perso te per andarmene con lei. Ecco, se posso continuare sulla questione del linguaggio. Il linguaggio popolare, della musica popolare, è universale e quindi lega tutti. Però il linguaggio contiene anche delle parole, dei testi, e le lingue poi sono inevitabilmente diverse. Quindi ci sono anche espressioni nei testi delle canzoni di culture molto particolari, della nostra vita vissuta in Italia o della vita vissuta in America. Ecco, ti sembra che questo sia vero, sia un problema e sia una costrizione della lingua? Sì, beh, indubbiamente la musica pop, la pop music, ha come lingua egemonica da 70 anni, 90 anni, la lingua inglese, questo è un dato di fatto, nel senso che lo ha culturalmente, ma poi c'è anche comunque anche un'egemonia industriale, o almeno c'è stata, culturale. E l'inglese tra l'altro ha un enorme vantaggio dal punto di vista del suono, cioè una lingua rapida, molto più sonora della nostra, che se ne dica. Ogni tanto dicono l'italiano è una lingua meravigliosa. L'italiano è una delle lingue più difficili da usare quando la si deve cantare, tant'è che se anche pagine memorabili dell'opera, del melodramma, del bel canto, se voi, meno male che non si capisce nulla di quello che dico, di quello che canta il tenore o il soprano o il basso, perché ci sono delle cose terrificanti scritte dai librettisti, poi le musiche sono meravigliose, ma infatti non capisce quasi niente nessuno, e è un grande vantaggio. E anche per la tecnica che usano, che usa il cantante lirico, che è quella di ingolare tutto, di avere un altro tipo, e quindi c'è un'emissione. L'italiano è una lingua che è polisillabica, è una lingua che non finisce mai, lo capiamo pure dalle scritte quando sono tradotte. C'è, non lo so, in inglese, ma anche in altre lingue, ma insomma in inglese c'è una cosettina così e sotto c'è un libro intero, una traduzione in italiano. 200 lire di castagne sopra il cavalcavia, fiocchi di cenere nel cielo, l'inverno bussa già. Presa a contare le corriere che stanno sfrecciando via, l'intervallo lei lo passa qui, sola senza compagnia. Io sono terrorizzato dalle parole, vivo la mia composizione in maniera quasi schizofrenica, nel senso che la musica è un mondo misterioso, è una specie di acqua, è quasi metafisica, né? E invece le parole hanno un senso compiuto, hanno una dimensione, ahimè, e questo le rende anche difficili. Io ho veramente un grandissimo rispetto nei confronti di tutti coloro, scrittori, giornalisti, cioè tutti coloro che devono misurarsi con la parola, perché le parole sono una scienza esatta. E allora tante volte c'è il rammarico di non essere nato in un paese che avesse l'inglese o anche il portoghese, cioè quelle lingue che suonano, che hanno una sonorità che io ritengo migliore, che molti di noi ritengono migliore. Ecco, se tu pensi all'italoamericano, che cosa pensi? Come ti rapporti con gli italoamericani? Qual è la prima cosa che ti viene in mente? Io penso che le cose siano effettivamente molto cambiate. Allora, la prima volta che mi è capitato di venire a cantare negli Stati Uniti era uno spettacolo composito al Madison Square Garden e aveva un forte sapore di italianità, però molto, molto, come dire, molto connotata. Di che anno stiamo parlando, più o meno? Del 73. Erano tanti, tanti protagonisti e ognuno serviva un po' ai gusti, no? delle persone che le erano lì. Però effettivamente si capiva un po' che c'era la maggior parte delle persone che erano lì erano persone che avevano lasciato l'Italia già da parecchio tempo e che consideravano e pensavano che l'Italia fosse come quella che avevano lasciato sempre. Io mi ricordo un signore che venne e mi regalò un pacchetto di gomme americane e dicendo queste non ce l'avete in Italia. Eravamo in quell'anno, eravamo il massimo produttore di gomme americane nel mondo, l'Italia. Però c'era questa sensazione in cui c'era veramente lo scollamento, cosa che poi nel tempo, venendo altre volte, io non ho mai più provato. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Ed eccoci alla canzone del giorno natalizia. Let it snow, let it snow, let it snow, let it snow di Dean Martin. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really grab me tight, all the way home I'll be warm. Oh, the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Da New York è tutto, Mario Pratero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.